Libro di Ruth, episodio 8. Sposami. Leggo nel libro di Ruth, dal capitolo 2, verso 23, al capitolo 3, versetto 13. Ruth rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare fino alla conclusione della mietitura dell'orzo e del frumento e abitava con sua suocera. Naomi, sua suocera, le disse: «Figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia. Ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì, e lui ti dirà quello che tu debba fare». Ruth le rispose: «Farò tutto quello che dici». Scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e bevve, e con il cuore allegro se ne andò a dormire all'estremità del mucchio di covoni. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò ed ecco una donna era coricata ai suoi piedi. «Chi sei?» le chiese. E lei rispose: «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Ed egli a lei: «Sii benedetta dal Signore, figlia mia. La tua bontà da adesso supera quella di prima, poiché non sei andata dietro a dei giovani, poveri o ricchi. Non temere dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa». La mietitura dell'orzo in Israele cominciava con la festa delle primizie, durante la settimana di Pasqua, e quella del frumento terminava più o meno in corrispondenza della festa delle settimane, 50 giorni dopo. In questo periodo di circa 2 mesi, Ruth lavorò con le serve di Boaz in maniera regolare e la situazione era certamente migliorata per Ruth e Naomi. Il miglioramento della situazione portò Naomi a mettere da parte l'amarezza che l'aveva contraddistinta nella prima parte del libro, vedi Ruth 1:20, per ritrovare la dolcezza implicita nel suo nome. Ricordiamoci che Naomi significa «mia dolcezza». La dolcezza di Naomi la scorgiamo nella sua preoccupazione perché la sua giovane nuora sia felice. Finalmente la sua attenzione cominciava a spostarsi da se stessa e dai suoi problemi per preoccuparsi dei problemi della nuora. Un segno della guarigione interiore che stava avvenendo in Naomi. È sempre un buon segno quando cominciamo a distoglierci dai nostri problemi per aiutare gli altri, vero? Ruth era una moabita e certamente non conosceva a fondo le usanze in Israele e in particolare in Betlemme. Ma Naomi sapeva bene come una donna avrebbe dovuto procedere per segnalare il suo desiderio di offrirsi come sposa ad un parente del marito defunto per poter dare una discendenza alla famiglia. Tale usanza prevedeva comunque che fosse la donna a segnalare la sua disponibilità per questo tipo di matrimonio. Ruth non era obbligata. Tuttavia quella giovane moabita aveva deciso di andare fino in fondo e stava dimostrando davvero la sua serietà nel volersi sottomettere al Dio di Israele, ma anche agli usi e costumi di quella nazione. Non dobbiamo però credere che Ruth avesse accettato il consiglio della suocera solo per accontentarla. Quel Boaz era stato gentile con lei e aveva parlato al suo cuore fin dal primo giorno che si erano conosciuti, vedi Ruth capitolo 1 versetto 13. E Ruth aveva avuto certamente modo di apprezzare ancora di più quell'uomo durante le settimane passate. Ruth fece quindi la sua scelta e decise di offrirsi come sposa a Boaz. «Sposami», le disse con quel gesto che a noi può sembrare davvero ardito. Sicuramente la procedura che Naomi fece seguire a Ruth non è quella che indicheremmo a nostra figlia nel XXI secolo. Ma nel racconto è ovvio che Boaz comprese molto bene ciò che Ruth stava facendo quando la trovò ai suoi piedi nel cuore della notte Ella non si stava offrendo per una semplice notte di passione, ma come ella stessa disse, gli stava chiedendo di esercitare il suo diritto di riscatto, ovvero di sposarla. Boaz era un uomo serio e non la toccò come avrebbe potuto fare un altro uomo con una giovane ragazza che gli si offriva in quel modo. Invece apprezzò ancora di più quella donna virtuosa. «Sii benedetta dal Signore, figlia mia, la tua bontà d'adesso supera quella di prima». Ruth era probabilmente abbastanza avvenente da potersi offrire a persone ben più giovani di lui, senza curarsi del diritto di riscatto. Non solo quella giovane aveva sacrificato la sua vita per la sua suocera, ma intendeva anche onorare il marito defunto dandogli la discendenza che non aveva avuto. Che donna era quella Ruth! Boaz non era obbligato ad esercitare il diritto di riscatto, ma essendo un uomo che temeva Dio, considerava un onore ciò che Ruth gli stava proponendo. Egli avrebbe svolto volentieri il ruolo di riscattatore della famiglia, perché quella donna lo meritava davvero e lo stava dimostrando. Il lettore moderno può rimanere piuttosto stupito da quanto abbiamo letto. Nella nostra società, sia le donne che gli uomini scelgono i propri partner più che altro attratti dall'aspetto fisico. Ma, come avevamo già fatto rilevare in precedenza, Ruth e Boaz avevano cominciato dal loro primo incontro ad apprezzare le virtù l'uno dell'altra e ora, a distanza di qualche settimana, vediamo il frutto di quell'attrazione. Ruth era pronta ad offrirsi come sposa a quell'uomo, benché più vecchio di lei, pur di onorare la memoria del defunto marito. Boaz, a sua volta, era pronto a prenderla in sposa, pur comprendendo che il loro primo figlio, se il Signore lo avesse donato loro, avrebbe portato avanti non il suo nome, ma quello del defunto marito di Ruth. Non è la storia d'amore a cui forse siamo abituati, ma è comunque una storia d'amore, un amore che porta ad essere responsabili verso l'altro, a fare la scelta giusta. Come vedremo, Dio benedirà questa storia d'amore in una maniera straordinaria.